sole, n'aria serena dopo una tempesta, e l'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa una giornata e sole. Sole, sole, sole, sole.